Succede spesso quando sei da sola. Cercare compagnia nei ricordi. Qualcosa ancora manca, non sai cosa. Forse l'hai lasciata ora dove. Aspettare troppo non ha senso. L'attimo è scappato per la fretta. Come il tempo va, è così l'età. Allo specchio è dura la realtà. Aspettando ancora si saprà da che parte stia la verità. Ogni errore è parte della vita e poi si può anche ridere di noi. Vita messa in pagine di un libro, ognuno ha la sua storia nei ricordi. Scrivere di un brano, poi vedere come lo stare in un romanzo che non c'è. Passa il tempo, sta prendendo il volo. Aggiungi qualche brivido al destino. Riscoprire ancora adesso un'altra età. Altra vita e nuova realtà. Non devi più aspettare, ora va. Cercala nell'attimo l'età. Se un errore serve nella vita, e poi dipende dalla scelta e cosa vuoi.